E allora buonasera a tutti e tutte sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Siamo ad Entropia Massima, la trasmissione del lunedì. Questo lunedì è la volta di Assud e quindi parliamo di conflitti ambientali. E insomma, i compagni sono già qui, hanno preparato una puntata speciale sul Salento. Quindi diciamo che Salento evoca subito almeno un paio di conflitti ambientali, quello relativo agli ulivi, alla cosiddetta xylella e la lotta no tap. Ecco, questa sera parleremo di entrambi. Do subito la parola a loro. Ciao, sono Rita. Allora, stasera noi abbiamo pensato che avvicinandosi l'estate era giusto parlare di Salento, fare una puntata un po' evocativa, un po' calda. Allora, un secondo, abbiamo dei problemi. Prova quell'altro microfono. Sì. Ok, allora cominciamo benissimo. Allora, dicevo che essendo estate abbiamo pensato di dedicare la puntata al Salento per fare una cosa un po' evocativa, rievocando sole, mare, vento, ma anche in realtà quelli che sono i conflitti che sono più famosi, rappresentativi di questo territorio. Lo facciamo in questa fase perché è importante ribadire quello che sta succedendo in Salento da diversi decenni ed è importante ribadirlo ora anche alla luce delle recenti elezioni, anche alla luce del contratto di governo, considerato che gran parte degli impegni che una parte dello schieramento che sta componendo il governo di questo paese aveva preso degli impegni precisi che rispondevano a delle posizioni precise e poi però in realtà adesso che si è formato un governo la cui composizione era forse un po' inaspettata, probabilmente andrà in difficoltà. Noi cominciamo immediatamente e per parlare di Salento stasera abbiamo un po' di ospiti che si presenteranno da soli e che sono molto molto competenti. Ti ringrazio Rita per il molto molto competenti. In realtà siamo due studenti, io sono Michele e a fianco a me ho Enrico. Ciao. E veniamo dall'Università di Torino e abbiamo vissuto un periodo, gli ultimi sei mesi in Salento. E diciamo che abbiamo avuto modo di avvicinarci un po' a tutte le vertenze che caratterizzano questa terra e sono tutti dei conflitti che possiamo considerare ambientali, anche se ovviamente poi non c'è una divisione così netta, se non per il fatto che appunto c'è questa percezione generale di cosa è l'ambiente in Salento. Allora, quindi stiamo parlando di Salento, stiamo parlando di Taranto, di TAP, di Cerano, di Statale 275, di Brindisi, del referendum delle Trivelle, quindi una serie di situazioni che compongono una percezione di un ambiente in qualche maniera attaccato, di un territorio attaccato. E noi in particolare ci siamo occupati, come abbiamo detto in apertura, di TAP e Xylella. Che sono due vertenze parzialmente collegate perché di mezzo ci stanno gli ulivi, ovviamente, che è uno dei simboli sicuramente del Salento che caratterizza la terra salentina. Però in realtà parliamo anche di un modello di sviluppo che passa attraverso queste situazioni qua e quindi passa attraverso un'industrializzazione forzata che ha vissuto i suoi primi momenti conosciuti con la cassa del mezzogiorno e quindi defiscalizzazione e l'apertura ai capitali del nord Italia con una situazione di inquinamento che caratterizza tutto il meridione, non solo il Salento. E parliamo anche di industrializzazione agricola in realtà e quindi di tutto quello che è la situazione che poi in realtà non è troppo salentina ma riguarda anche in Salento, che è quella foggiana, e quindi la possibilità di un'agricoltura legata solo a uno sfruttamento e a una coltivazione estensiva. E diciamo, da questo punto di vista il nostro lavoro quindi è stato sul territorio con i comitati e con tutte le altre associazioni che si stanno occupando di queste situazioni qua. E alla luce di questo, a questo punto faccio un po' di domande a entrambi. Ok, uno, questi olivi sono malati? Che hanno? È vera questa storia? E quanto impatta sul territorio? rispetto alle varie voci che in realtà ci sono, che sono così contrastanti, com'è possibile orientarsi su questo piano? Due, è possibile affermare da un lato che, visto che si ha un'impronta ambientalista nella propria visione politica, probabilmente si tenderà a fermare la TAP e contemporaneamente però mantenere fede alla strategia energetica nazionale basata interamente sul gas? Questo cosa implica? Tre, soprattutto, come vanno le cose laggiù? Noi ci siamo stati un anno fa, abbiamo provato a raccontarlo 4 mesi fa, proviamo a fare un aggiornamento rispetto allo stato di fatto del conflitto. Va bene, allora io provo a rispondere, Enrico, quando vuoi mi puoi interrompere e andare insomma insieme. Allora, il batterio Xylella fastidiosa esiste, c'è, ci stanno delle diverse ricerche che lo affermano. Il problema è capire qual è l'impatto di questo batterio, perché sull'ulivo non si era mai presentato e le politiche che vengono messe in campo adesso rispondono molto più a un principio di precauzione. E quindi, essendo nella lista EPPO di patogeni da quarantena, si deve mettere in campo questa politica, che è quella più contestata, appunto dello sradicamento degli ulivi a 100 metri dall'ulivo infetto. E quindi c'è questa cosa che te non vedi un albero malato, ma se ti dicono che quell'albero è malato, fondamentalmente non devi sradicare solo quello, ma quelli presenti nei 100 metri di raggio. Sì, sicuramente questo è il primo problema, nel senso che arrivano delle direttive, arrivano delle ordinanze che prendono alle volte alla sprovvista le realtà contadine, perché il contadino è in grado di affidarsi ai propri sensi, tra cui quello della vista, e non vede un albero malato, eppure deve essere abbattuto, magari un albero che ha piantato suo nonno. Però è vero, il batterio c'è e si sta dibattendo tantissimo da anni su che peso abbia. La reale pericolosità. Precisamente. Se esiste. La reale pericolosità, quindi più precisamente si parla della correlazione tra il batterio Xylella e il complesso del disseccamento rapido. Dell'ulivo codiro, esatto. Che viene nominato poco, ma in realtà è una serie di patogeni, e non è solo una serie di patogeni, ma una serie di condizioni di esistenza di un territorio pure, perché negli ultimi 60 anni l'agricoltura che è stata foraggiata è stata un'agricoltura comunque intensiva anche nell'uso dei pesticidi, e ci stanno diverse ricerche pure che parlano di questa cosa qua. Allora uno si fa due domande, anche perché appunto i due grandi piani politici che sono stati messi in campo sono stati quello del decreto Silletti e del piano Martina, il più recente. E tutte e due foraggiano comunque in qualche maniera. Sì, sembra che taglino un po' corto. Sì, tagliano corto, e fondamentalmente il piano Silletti prevedeva un utilizzo di fitofarmaci, cioè una striscia chimica. Sì, striscia chimica di da mare a mare. Da ionio adriatico, fondamentalmente. Bella scia chimica. Esatto, senza considerare tutto quello che c'è, quindi in mezzo. Non stiamo parlando solo di un batterio, ma stiamo parlando di una cosa diversa. Allo stesso modo, pure il decreto Martina. Perché era decreto Martina e piano Silletti, prima mi sono confuso. Il decreto Martina autorizza l'utilizzo di neonicotinoidi. Bravo. Che sono dei fitofarmaci addirittura non più legali, ma di cui si hanno numerose scorte, e quindi in qualche maniera diventa pure una buona possibilità per liberarsene. Sì, poi abbiamo una quantità di deroghe incredibile, non solo per l'utilizzo di questi fitofarmaci, ma anche in relazione ai vincoli paesaggistici, in particolare in Valle d'Itria, dove si è attuata una deroga in modo tale da poter abbattere anche alberi secolari che se no erano sotto vincolo. Per quanto riguarda la seconda domanda che ci avevi fatto, Rita, sulla strategia e TAP, allora la TAP non è che viene fatta per una questione di necessità di consumo, cioè la necessità è una necessità economica, cioè lo Stato italiano vuole creare dell'Italia un hub del gas, e questo c'è scritto proprio nella strategia energetica nazionale, quindi non stiamo parlando proprio di... E la cosa su cui speculano è che nei prossimi 50 anni la società non riuscirà ad abbassare i consumi di gas, come peraltro sta avvenendo, quindi stanno speculando sul fatto che nei prossimi 50 anni insomma. Sì, in una delle ultime occasioni eravamo a Lecce, si presentava un documentario MENA sulla lotta no TAP contro gli urli accaniti della platea. Emiliano diceva ci serve il gas per decarbonizzare l'Ilva e diciamo è stato smentito pochi minuti dopo, però diciamo che come dire, si prova a portare avanti ad ogni costo questo progetto. Adesso di mezzo c'è lo spostamento a Brindisi, non si sa, cioè, sì. Già da prima, però il discorso è che i lavori per un motivo o per un altro vanno veramente a rilento e non lo so, secondo me se la stanno facendo un po' sotto. Sì, anche perché ci sono tutta una serie di problemi anche con i prestiti di BEI, delle esatto. banche europee, perché evidentemente qualcuno poi guardandola un po' più alla lontana ha capito che forse quest'opera tanto lungimirante non è. E si sta rivelando infatti il buco nell'acqua, anzi il buco nel territorio proprio, esatto. che i cittadini denunciavano. Tant'è vero che uno degli slogan da cui poi siamo partiti, da cui poi è partito tutto, era tanto non la fanno, perché in realtà l'idea che startup a un certo punto la faranno veramente è poco diffusa e pare più che sia un gioco al ribasso, pare che sia più un modo per affermare la propria posizione rispetto ai comitati e fare forza, gioco forza rispetto a questo, che una volontà politica reale di realizzare quest'opera. Al punto che poi a un certo punto si è arrivati a dire ok, allora non la possiamo fare in Salento perché gli olivi, perché il Salento è bello, vabbè ci sta Brindisi, c'è Cerano, già stanno morendo tutti di cancro, togliamogli il carbone e mettiamogli il gas. È evidente che non è questa la soluzione ed è una delle ragioni, anche ne discutevamo anche prima di iniziare la trasmissione confrontandoci tra di noi, è una delle ragioni che poi ha portato a mettere in chiaro all'interno dei comitati no TAP quale fosse poi la posizione di tutti e quale fosse la linea da difendere. E la linea da difendere resta sempre la stessa. Né mo né mai, né qua né giai. Esattamente. Come dice Treble, lo professore. Esatto. Comunque sì, volevo chiudere dicendo un'altra cosa, che c'è sempre questa retorica che da qualche parte te lo devi prendere, no? Cioè, se vogliamo chiudere l'Ilva dobbiamo fare la TAP. Se volete lavorare dovete crepare. C'è un po' sempre questa cosa, non si riesce mai a dire una cosa com'è, insomma. E allora direi di fare una prima pausa dopo questo primo blocco di interventi. Ascoltiamoci un pezzo dei Sepultura. urgenti, no? E allora ritorniamo in diretta con Entropia Massima. Nel frattempo ci siamo collegati durante la pausa con Ivano, che vuole intervenire. Ivano, sei già collegato, puoi parlare. Salve, buonasera a tutti. Ciao Ivano. Allora, Ivano è un coltivatore e un attivista. Ivano, io vorrei che te ci raccontassi un po' della situazione generale della coltivazione olivicola in Salento, anche partendo dalla tua storia, perché la tua storia è interessante da questo punto di vista. Allora, buonasera a tutti intanto, e grazie per questa intervista. Allora, la mia storia inizia fin da bambino sugli ulivi. I miei genitori erano emigranti, io ho vissuto con i nonni e i nonni mi hanno insegnato quell'agricoltura rurale, quella che non c'è più, quella ricordata da Pasolini. E quindi da sempre mi sono occupato di olivicoltura, ma in generale di agricoltura. Direi che ho abbandonato quell'agricoltura rurale per sposare molti anni fa, l'agricoltura convenzionale, quella della chimica, per poi pentirmi circa 10-12 anni fa. È incominciato il mio pentimento, diciamo che sono un contadino pentito dell'agricoltura chimica, perché ho capito che stavo lavorando esclusivamente per le multinazionali della chimica, che mi stavano svuotando le tasche e allo stesso tempo stavano avvelenando l'ambiente, la terra di cui siamo circondati e il piatto delle mie figlie. A un certo punto ho dovuto dire basta, ho abbracciato l'agricoltura organica rigenerativa grazie al mio maestro, un mio maestro Caio Restrepo Rivera, un maestro latinoamericano che mi ha insegnato queste tecniche. Ecco, sì. Ho fondato un'associazione che si chiama Spazi Popolari. Questa associazione raccoglie una rete di piccoli produttori che praticano l'agricoltura organica, quindi l'agricoltura naturale, quell'agricoltura che i nostri avi ci hanno tramandato. Perfetto. Poi scoppia il caso, tra virgolette, Xylella, Codiro, chiamiamolo col suo giusto nome, complesso del disseccamento rapido dell'urto, e qui incomincia una storia lunga, una lunga storia che già sta durando da 5 anni abbondanti. Incominciano a seccare i primi ulivi, ma la storia non ci convince affatto, perché io onestamente non avevo fiducia in questo tipo di scienza e non ho fiducia in questa scienza, che tra l'altro è finanziata dai privati. E vorrei ricordare un po' a tutti che adesso nelle università la ricerca non è più pubblica, è privata. Sì. E quindi possiamo ben capire con quali fini si fa ricerca. Bene. Fin dall'inizio. Ti posso interrompere un attimo, Ivano? Sì, prego. Allora, io appunto volevo sapere da te, secondo te, che spazio c'è per questo tipo di agricoltura adesso, dove comunque il mercato va verso un'agricoltura estensiva, come dicevamo prima, un'agricoltura di sfruttamento. Solo in alcune zone si riesce a fare un'agricoltura cooperativa in cui si riesce anche a liberarsi un po' di quello che è il gioco della grande distribuzione, no? Che ti costringe a vendere casse di pomodori come a 6 centesimi l'una, no? O comunque quali sono secondo te le prospettive, le possibilità di creare una cooperazione vera tra produttori e consumatori da questo punto di vista? Allora, partiamo da un dato di fatto. L'agricoltura convenzionale e la grande distribuzione stanno impoverendo il pianeta e la fame nel mondo sta aumentando. Al di là di tutte le belle parole che ci dicevano che con l'agricoltura intensiva serve a sfamare il pianeta, tutto falso. Lo sta affamando di più, lo sta sfruttando di più, sta sfruttando la terra e sia chi opera e sia i contadini che ci operano nella terra. E aggiungo, noi dobbiamo scegliere un altro modello di sviluppo che non è questo. Noi dobbiamo partire dai nostri semi, dall'agricoltura rurale, non da quella intensiva, valorizzare ciò che è tradizionale, ciò che i nostri avi ci hanno tramandato, altrimenti noi non saremo mai competitivi, perché nel momento in cui noi andremo ad abbracciare un'agricoltura intensiva o super intensiva, ci saranno altri paesi al di là del Mediterraneo o in altre parti del mondo che produrranno a dei prezzi più bassi dei nostri, quindi sfruttando ancora più manodopera da altre parti, non solo qui. Quindi noi dobbiamo essere competitivi, anche se questa parola non mi piace, perché la competizione tra uomini è una brutta cosa, ma possiamo essere, possiamo affrontare un altro tipo di mercato con i nostri, ripeto, sapori. Noi dobbiamo immettere sul mercato un prodotto che altri non hanno e viceversa, quindi in questo modo noi saremo competitivi. E mentre c'è una domanda di biologico, quindi non mi riferisco al biologico certificato, perché in quello non ci credo, io credo più nell'autocertificazione, quindi nell'autocontrollo, dove c'è il cittadino che consuma il prodotto, che si stabilisca una relazione con il produttore. Noi dobbiamo puntare lì. Proprio in questi giorni mi hanno scritto dalla Francia, dalla Provence, mi hanno scritto dei contadini che vogliono incontrarci, mi hanno espresso solidarietà e mi hanno incoraggiato e mi hanno detto: questa è la strada che dobbiamo perseguire unitariamente. Ivano, quindi noi dobbiamo allargare i nostri orizzonti, dobbiamo a tutti i costi bloccare questa agricoltura che vogliono imporci, perché poi imporci questa agricoltura significa imporci delle piante brevettate che hanno dei costi, i semi devono essere liberi. Dico una cosa per tutte, noi le prossime guerre non saranno quelle del petrolio e del gas, queste diciamo si stanno quasi alla fine, le prossime guerre saranno per l'accaparramento delle terre, che già è in atto, l'accaparramento dell'acqua pubblica, che è già in atto, e l'accaparramento dei semi. Quindi questa sarà la sfida di tutta l'umanità e noi non possiamo permettere che il seme della vita vada nelle mani di poche multinazionali, Ivano, che detengono la vita sulla terra. Ti volevo chiedere, io sono Enrico, ci siamo già conosciuti in Salento, ti volevo chiedere rispetto appunto a queste guerre o a livello locale magari per ora assomigliano più a delle lotte condotte sicuramente con tenacia. Questa puntata oggi riguarda le lotte del Salento e abbiamo anche parlato di TAP. In ogni caso, sia per Xylella sia per TAP abbiamo a che fare con il futuro del Salento. E ti volevo chiedere, con questa idea che viene fuori dalle politiche che si stanno attuando, un Salento agricolo, secondo te sarà possibile effettivamente come frutto dell'unione di queste lotte? Secondo me sì, perché comunque stanno nascendo tante associazioni che si occupano di agricoltura, ma un'agricoltura sana. In parecchi comuni ormai ci sono tanti mercatini di produttori che producono naturale, stanno nascendo dei gruppi di acquisto dove la gente acquista direttamente sul terreno o tramite appunto questi gruppi di acquisto. quindi un'altra agricoltura e un'altra economia è possibile. Noi non possiamo più sfruttare il pianeta, qui non si tratta di essere ambientalisti o meno, queste etichette a me non piacciono, però comunque c'è un ambiente che ormai è depauperato di tutto, questo è innegabile. Il Salento è una terra sotto attacco, è una terra sotto attacco dal neoliberismo, questo neoliberismo che adesso si è trasferito in agricoltura e vogliono praticamente far sradicare tutti i nostri ulivi secolari per dare spazio agli impianti intensivi e super intensivi. Ti dico già una cifra, ormai ci sono il 50% abbondante di terreni che ormai sono, sono stati messi in vendita, e questi terreni, laddove gli ulivi stanno seccando, hanno perso il loro valore commerciale, quindi il terreno sta perdendo prezzo, sta perdendo valore, e qui arriveranno gli avvoltoi a comprare i nostri terreni e a fare agricoltura intensiva. Noi questo non lo dobbiamo permettere. Per questo ti ringraziamo, Ivano, per il tuo impegno. Grazie Ivano, e speriamo appunto un'ultimissima cosa. Vorrei che chi ci ascolta deve sapere: gli ulivi si possono curare. Noi abbiamo diverse sperimentazioni empiriche, tra l'altro abbiamo pure un progetto finanziato della Regione Puglia, che ahimè, vabbè, non mi dilungo in questo, e stiamo dimostrando ampiamente che gli ulivi si curano e possono ritornare a produrre, se solo rispettiamo la terra, perché qui il terreno è morto non solo nel Salento, ma è morto in tutto il mondo occidentale, dove ormai la sostanza organica è ridotta quasi allo zero, stiamo parlando 0,7-0,8%, e questo non soltanto nel Salento, ma anche in Trentino, anche nel Veneto, anche in Lombardia, in Emilia Romagna ancora peggio, in Sicilia. Dobbiamo dire basta ai pesticidi, dobbiamo dire basta ai diserbanti, dobbiamo dire basta a questo tipo di economia. Ok, Ivano, io sono Rita, la terza speaker. Prima di chiudere ti volevo chiedere soltanto una cosa, abbiamo pochissimi secondi, però giusto perché chi ci ascolta poi possa approfondire questi studi a cui ti riferivi, possiamo reperirli anche online così da diffonderli e farli girare? Guarda, io vi mando, mi date una mail e io vi invio il tutto. Allora sarà premura di Assud farli girare il più possibile. Grazie mille, ciao Ivano. Grazie a voi, buona serata. Beh, allora prendiamoci un'altra pausa musicale e andiamo ad ascoltarci un brano dei Meganoidi dedicato a Carlo Giuliani. Giorni che passano senza di te, quasi convinto che in fondo sia meglio così, allentare la presa per merito di chi mi consola ed esorta alla rinuncia, ma la pelle rigetta quel sorriso che trapiantato da bocche riverenti, no, lo sai, non funziona su di me, ostinato a ripetere tra i denti, brucia ancora. Allora, torniamo in diretta. Questa era Z Reticoli dei Meganoidi, celebre brano dedicato a Carlo Giuliani. Nel frattempo ci siamo collegati con Luca. Luca, ci senti? Sei? Sì, vi sento benissimo. Benissimo, quindi puoi intervenire direttamente quando vuoi. Ciao Gianluca. No, Gianluca. Siamo Enrico e Michele da Roma. Ciao Gianluca, sono Rita. Gianluca è un vecchio amico di Assud, storico attivista del movimento NoTap. E anche stasera per la terza volta penso ti chiamiamo per parlare di quello che sta succedendo in Salento. In particolare stasera, per la tua gioia, non ti intervisto io, ma ti faccio intervistare da loro. Che abbiamo avuto modo di parlare già diverse volte di queste tematiche. Gianluca, Gianluca, ricordiamolo, ormai è diventato veramente un esperto ingegnere di tutte, insomma, è veramente quello che segue più da vicino tutte le vicende tecniche, prettamente tecniche, no, che riguardano questa. Conosci questa il tuo nemico? Sì, perfettamente. Ma infatti ci vuoi parlare di questo aspetto, magari come si sono rivelati utili le conoscenze che in questi anni hai dovuto imparare, hai dovuto conoscere per una efficace opposizione al mostro TAP? Ah, essenzialmente c'è prima di tutto da dire che in Italia, anzi possiamo dire nel mondo, le società che costruiscono oleodotti, gasdotti di queste proporzioni sono veramente poche e storicamente chi le ha portato avanti sempre a livello ingegneristico opere del genere sono stati gli americani e gli italiani, gli italiani con SNAM Progetti, Eni, Saipem e via dicendo. Quindi andare a trovare conoscenze su queste grandi opere, su questi impianti, è veramente complesso, perché significa veramente entrare a casa del nemico, per virgolette. Essenzialmente noi abbiamo non moltissimi impianti di questo tipo per ogni nazione. Certo. L'Italia, che ha 7 punti d'accesso a livello internazionale fra rigassificatori e tubi, ha solamente 2 approdi di questo tipo al mare, uno che è il Green Stream, che arriva a Gela, e uno che è il Transmed, che arriva a Mastro del Vallo. Quindi essenzialmente andare a studiare queste opere significa andare a mettere le mani su una materia estremamente complessa. Certo. E io... già questo smentisce la pubblicità di TAP e di chi la segue: è solamente un tubo. Un'opera del genere non è un tubo. un collegamento che tecnicamente lo possiamo definire energetico lineare, point to point, cioè fisso. Volevo aggiungere, ricordare pure che insomma a chi ci ascolta che ovviamente la TAP non si esaurisce in TAP, ma poi ci sarà tutto il gasdotto che da Melendugno, da Mesagne, se non sbaglio, giusto Gianluca, mi correggi? Sì, in realtà un tratto Mesagne Massafra già costruito, poi c'è il Massafra Biccari, il Biccari di Campochiaro, fino ad arrivare praticamente a Minervio dove c'è uno stoccaggio della Stogit, sono 672 km. Quindi ecco, a questa cosa, a quest'opera gigante se ne dovrebbe aggiungere un'altra altrettanto grande che porta il gas dal Salento appunto al nord Italia. Ma su questo noi possiamo dare anche su questo spunto, cioè che il TAP non finisce a Melendugno, possiamo dare anche una visione di come si muovono queste grandi opere, sempre sul concetto di massimizzare il profitto e esternalizzare i costi. Giustamente loro devono arrivare all'hub europeo del gas in Austria, quello che è esploso il 12 di dicembre scorso, capirai che una volta loro toccato il suolo europeo, il suolo italiano, sfruttano al meglio tutta la normativa italiana ed europea e dicono: per il terzo pacchetto energia, tu SNAM, tu società che gestisci gli impianti in Italia, sei obbligata a rendere questo gas fruibile in tutta Europa, quindi devi costruire il resto. Però quando invece questo terzo pacchetto energia, che aprirebbe il tubo alla concorrenza, dovrebbe essere open session, quindi dovrebbe essere fruibile a tutti gli operatori, per questo, sempre per lo stesso terzo pacchetto energia, loro chiedono la deroga. Quindi la deroga per i vantaggi del terzo pacchetto energia europei, questo tubo di bene comune tra virgolette, ma il rispetto del terzo pacchetto energia quando a costruire per un costo di 6 miliardi di euro 670 km di gasdotto deve essere SNAM, che poi SNAM per gran parte è partecipato alla cassa depositi e prestiti, in ogni caso prende finanziamenti dalla BEI e dalla BES per riuscire a costruire quest'opera. Immaginate chi è che alla fine paga quest'opera. È un concetto abbastanza stretto, per cui noi poche volte parliamo del reale impatto ambientale di un'opera del genere, che è pesante, pesantissimo, anche durante il funzionamento. Se ti interrompo, però in realtà a me piacerebbe che sottolineassimo anche questo aspetto, perché questa nasce come una puntata sul Salento. Abbiamo parlato tanto di xylella e olivi, abbiamo intervistato anche Ivano, un agricoltore del territorio. Ci piacerebbe chiudere il cerchio parlando di TAP su tutto il discorso globale. Beh, globalmente un'opera del genere ha molte sfaccettature di impatti. A livello sociale, per esempio, cambia completamente il modello di sviluppo che quest'area si è dato. Quindi noi stiamo parlando di un talento che fino adesso è stato vincente, ha sconfitto anche la crisi, con le piccole aziende che vivono di agriturismi, di agricoltura di qualità e via dicendo, e invece arriva un'opera che dà il là al cambiamento, all'industrializzazione della zona, quindi via turismo via dicendo, e questo è un impatto sociale che storicamente è stato già visto in altre parti d'Italia, neanche molto lontano da lei, cioè tipo a Taranto, a Brindisi negli anni 60, 70, 80, per dirne una. Certo. Poi c'è la questione reale dell'inquinamento. Allora, il tubo in sé, se tutto funziona bene, ha un impatto a terra limitato, in mare abbastanza alto invece. In mare giustamente la fauna risente di questo tubo d'acciaio che vibra a secondo della quantità di gas che lo attraversa. Comunque viene posato nei pressi o addirittura sopra di una prateria di Posidonia e Cimodoce, è un po' un problema. in mare. Sulla questione a terra l'impatto, se tutto funziona bene, dovrebbe essere limitato allo spostamento degli alberi lungo il tracciato. Per quanto riguarda invece la lavorazione del gas, lì è un discorso veramente a parte. Qui stiamo parlando poi di una zona industriale che è il vero punto d'approdo italiano, dove c'è il misuratore fiscale, dicono loro, di 12